24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo gli attori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Questo mercoledì alle 6.33 una nuova puntata di Evviva le Rosse con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Vabbè, è diventata la controsigla del mercoledì ormai. Cara Paola, è diventata la controsigla del mercoledì. Dove sei, Paola Saluzzi? Ci sei, Paola? Buongiorno Alino. Paola, buongiorno, buongiorno. Però grazie, no. La controsigla che mi onora molto. La controsigla del mercoledì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è 24 mattino, sono le 6.32 minuti e siamo qui tutti quanti, Miriam Lucchetti è in redazione, l'Alpino dorme, cara Paola, dorme, quindi abbiamo Pietro Lacorte in regia questa settimana e quindi bombardini a raffica per l'Alpino e va bene. Allora salutiamo Pietro Lacorte e per solidarietà io ormai ogni mercoledì mi sveglio alle 5, anche 5 meno un quarto, infatti, così iniziamo la giornata insieme. Perché ti svegli alle 5 e inizi a twittare? Io sono ancora con gli occhi chiusi e vedo che già twitta. Sostengo la nostra campagna del mercoledì. Vabbè, ma puoi svegliarti anche un po' più tardi, non... Se no non è Radio 24 mattina. Va bene, va bene. Vediamo a che ora si sveglia il nostro Luca Dini. Forse Luca, direttore di Vanity Fair. Buongiorno, tu ti svegli a che ora? Io mi sveglio un po' più tardi, diciamo, verso le 7. Ecco. Vabbè, non il mercoledì, ma spero. No, anche il mercoledì. Soprattutto il mercoledì, verso le 7. Quindi si sveglia. Buongiorno, direttore. Tra 27 minuti Luca Dini si sveglierà. E questa è la buona notizia. Molto bene, allora possiamo aprire il nostro Parlamento? A un caffè si può avere? Il caffè. Allora, devo dire che oggi i giornali sono di una noia mortale, mortale. La cosa più interessante trovata è la crociata dei grillini contro il grano saraceno. Pensate che questo signore, questo onorevole Filippo Gallinella, un nome, un programma, ha fatto questo disegno di legge per difendere il Made in Italy, no? E contro l'avanzata del grano saraceno, no? Pensando per un refuso, un lapsus, che fosse il grano straniero. E tra l'altro oggi fa un'intervista a Repubblica e dice: è vero, sono un bischero. Già una volta la domanda stato civile risposi italiano. Sono un vero coglione, si diventa così, ma insomma non per questo mi sparo. Ecco, questa è la notizia più interessante del giorno, cara Paola. Ci mancherebbe altro che si sperasse, è solo che da oggi sarà meglio conosciuto come O Sarracino Bello Guaglione. Certo, questo sarà il nuovo soprannome che si porterà dietro. Effettivamente così. Sì. La battaglia contro il grano saraceno. Ma fortunatamente l'altra notizia veramente politica importante è che abbiamo qui un vero esperto, Luca Dini, di Senato alla francese, perché è il nuovo accordo che stanno mettendo in piedi, il Senato alla francese. A te, caro direttore, spiegare a tutti gli italiani. Io conosco meglio l'insalata russa. sì, più o meno. No, ragazzi, il dibattito è il Senato alla francese, il grano saraceno. Come Alino Milan apre tutti i giorni, cioè con Roberto Benigni, certo, che spiega che cosa sia il Senato alla francese, la bistecca alla fiorentina, oltre. No, ma qualcuno forse inizia a capire il senso della sigla del Benigni che mettiamo di 15 anni fa, cioè che è la la realtà supera la fantasia, cioè che Benigni scherza, ma è proprio invece questo il dibattito. Stanno discutendo sul Senato alla francese, cara Paola Saluzzi. Ma noi auspichiamo solo che si arrivi ad un finale, e questo così sembra molto semplicistico, però studiando in maniera così attenta, soprattutto chi ne deve parlare, quindi mi rivolgo a me stessa, cosa sia il Senato alla francese, purché il Senato sia, purché sia qualcosa. Sì, esatto, ecco. Dateci il Senato alla francese. Esatto. Quello che si vuole, però purché sia, così la smettiamo di navigare a vuoto. Certo. Io ricordo che penso, Alessandro, che se i francesi facessero una riforma, non direbbero mai il Senato all'italiana. Mai. Siamo sempre noi che... Mai, direttore. Siamo noi che andiamo a cercare queste cose. Certo, vi ricordate francesi quando... I francesi credono che la Bellucci sia loro, che Mastroianni fosse un loro concittadino parigino... E si sono impossessati saggiamente di Pasolini il giorno dopo che è morto. Vai, contro i francesi, scagliati contro i francesi. Facciamo una battaglia contro i francesi. Contro certi francesi, forse sì. La mongolfiera potevano inventarla solo loro, come dice la mia mamma. Perché aria calda che gonfia un pallone vuoto, però mai direbbero all'italiana. Mai, molto difficile. Ricordate che spuntò tempo fa anche la riforma elettorale all'australiana, il famoso Kangurum. C'è stato un momento in cui si parlava del Kangurum. Comunque le notizie sono queste: Di Pietro che torna in politica, dice ora mi metto in prima fila per il partito, e Gianfranco Fini pure che torna in politica. Ecco, abbiamo fatto un sunto veloce, caro Lucadini, della giornata. Appassionante, sì, c'è da dire che la politica italiana regala sempre qualcosa. Vabbè, avete qualche idea sullo sciopero della RAI? Ieri ne abbiamo parlato anche con il presidente di Commissione Vigilanza Fico, che è a favore. Tu, Luca, ti sei fatto un'idea di questo sciopero? Io sì, ma non si può dire. No, puoi dirla. Non lo so, io trovo tutto anacronistico, ecco. Cioè, fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo, perché? Perché sì effettivamente giustifichi, io non lo so, poi non ci siamo addentrati bene sulle motivazioni, eccetera. Ma no, appare... io capisco tutto, però la RAI deve pensare a come sopravvivere oggi, cioè è inutile cercare di attaccarsi a certi meccanismi, privilegi, che non esistono più e non possono esistere più. Eccola lì. Una che la RAI la conosce, c'è stata dentro, cara Paola. Anche il buon senso, per carità. In tutti i sensi, comprendendo perfettamente, ieri leggevo le ragioni di chi dice ci sono per ogni sede, c'è chi ha 136 metri quadrati a disposizione, neanche casa mia è così grande, battuta che mi ha fatto amaramente sorridere. I privilegi non esistono più. Deve prevalere una linea, ribadisco ancora una volta, di buon senso da parte di tutti, sindacati inclusi, persone, lavoratori, gente che è là dentro da tanti anni, gente che è appena entrata, gente che senta di fare parte di quel gruppo, di quell'azienda, di quel bene pubblico che è la RAI, che continua ad essere la RAI, e parla a chi non ci lavora, insomma. E quindi aspettiamo la giornata. Ma poi rientrerà, io credo. Sì. Dici. La politica deve mettere giù le mani, diciamo, perché poi il problema è anche quello. La RAI è fatta di eccellenze pazzesche, penso all'orchestra della RAI, che è una cosa straordinaria, che rischia di scomparire quando poi, insomma, ci sono dei carrozzoni tenuti su soltanto per clientelismo, per dare un posto di lavoro al cugino del fratello. Questo è fastidioso, è scandaloso. Non dimentichiamo che è la politica che ha gonfiato il carrozzone e ha fatto sorgere cose inutili di fianco alle eccellenze che esistono da quanto? 60-70 anni. Certo. Da 1954, direttore, abbiamo tutti imparato da lì, è inequivocabile il fatto. Poi grazie al cielo qualità sono nate altre strutture, però andiamo a rivedere, abbiamo tutti imparato a fare il mestiere da lì. dalla RAI. Quindi qualità pazzesca, certo, è il caso di dirlo, quindi che prevalga il buon senso, insomma, che lo sciopero rientri. Oh, questo dicono Paola Saluzzi e Lucadini. Però allora, visto che la politica regala queste cose, le solite notizie disastrose sull'occupazione dei giovani soprattutto, io alle 8:15 parlerò di questa vicenda che è stata rilanciata dal Papa. In realtà il tema è quello del fatto che non facciamo più figli, ma io qui voglio approfittare del fatto di avere Luca Dini, che è un papà, Paola Saluzzi, che non è mamma ma un gatto, e quindi perché il Papa ha messo insieme un po' le cose dicendo, anzi sentiamo qualche parola di Papa Francesco. Matrimoni che non vogliono i figli, questi, chi vogliono rimanere senza fecondità. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto, è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo, ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, 2 gatti, e l'amore va ai 2 gatti e al cagnolino. E c'è Pietro Lacorte che fa, le vacanze, i viaggi, bello, perché no? No, però al di là di tutto, allora, io faccio questa premessa che farò anche alle 8:15, i motivi per cui le persone non hanno figli sono i più disparati, possono essere centinaia, non è che si può fare un discorso che generalizzi, no? Ci sono casi diversi, però mi interessa il discorso introdotto dal Papa, da Papa Francesco, no? È più comodo avere il cane, il cagnolino, il gattino, non si fanno più figli, perché no, questi matrimoni senza fecondità. Allora, da dove cominciamo? Caro Luca Dini, che ne pensi di questa uscita del Papa? Non giudico l'uscita dal Papa, però il discorso degli animali lo trovo un po' una generalizzazione, cioè io non credo molto al fatto che l'amore sia divisibile, quindi se lo dai a un gatto lo dai solo a un gatto. Io penso che, cioè, preferisco una persona che dà amore a un gatto che qualcuno che ha i figli non glielo dà, come dire. Quindi penso che conosco persone che hanno gatti e che sono migliori genitori di persone che hanno figli, quindi non mi piace quel discorso lì. Avere un gatto non vuol dire che non puoi dare amore ad altri bambini che magari non sono i tuoi. Però c'è questo senso, no, per dire, adesso non è che voglio e non volevo da questo introdurre la copertina di Vanity Fair, che però mi è balzata qui davanti agli occhi, non sapevo neanche, io la scopro sempre all'ultimo momento. Piccole donne crescono, avete Drew Barrymore, no? Che proprio fa una celebrazione della maternità, è arrivata una nuova, chi è? Una nuova bambina, quanti ne ha? Due? Due bambine, mamma che gioia. Ecco, allora, cara Paola Saluzzi, tu come allora, te la vedi? Tu e il tuo gatto che si chiama? Caterina, gatta, Caterina. Salutiamo Caterina, e... se un giorno ce la fai intervistare, noi se dice qualcosa. Assolutamente, sarà, dirà poche cose, ma insomma, comprensibili. Sposo appieno la tesi di Luca Dini, parlo da non mamma, nel senso che vedo genitori con scarso senso genitoriale, ma credo che quello che il Papa volesse dire, e sicuramente la stessa cosa diceva anche Luca Dini, non è tanto la suddivisione ami quello piuttosto che quell'altro, è la scelta, è partire dall'idea del non voglio fare figli, mi tengo un gatto, che forse è la parte, o un cane, è la parte più amara, specialmente quando si vuole impostare una vita in un futuro che preveda dei figli. Quando i figli non li puoi avere, quando i figli non riesci a farli, quando i figli non li fai o non hai una legislazione che ti permetta, per esempio, di poterli adottare in maniera sì, un po' più naturale, un po' più semplice. O qualcuno ieri ha fatto notare una legislazione che non ti permette di farle magari con la fecondazione eterologa, contro la quale la Chiesa si è sempre espressa. La Chiesa si è sempre espressa, perché è giusto anche che la Chiesa si esprima così, insomma, sì, voglio dire, ognuno fa il proprio e soprattutto dice ciò che in cui crede. Io credo che si possa ugualmente dare amore a bambini anche se non si hanno i bambini propri. Lo credo più che altro perché lo applico quotidianamente, perché è il mio lavoro. Poi fatalmente viene un tempo in cui vorresti, anche perché magari vorresti dedicarlo alla persona che ami, vorresti avere la possibilità di farne 5 di figli, non ce l'hai più, e pazienza, insomma, andremo di gatti e di cagnolini. Andiamo chi può li faccia amandoli follemente, però amandoli con quell'amore incondizionato e totale, che fa sì che una persona possa dire: sono una brava madre, sono un bravo padre. Ecco questo. Non fare figli perché si deve fare numero. Vabbè, ma cioè, invece, scusa, ma Luca, ma voi sapevate le parole del Papa? Sfoglio ancora Vanity Fair, c'è un servizio su David Gandhi, che vabbè, magari non lo conoscete, ma lo conoscete, ha fatto una pubblicità: ti curo io, gattina. Ma che è? Ma che è? Cioè, parli di mamme, di gattine. Che sapevi? No, ci lui voleva fare il veterinario, poi invece ha scelto di fare il modello. Da veterinario. Allora, il nome non ti dirà molto, cara Paola. David Gandhi non ti dirà molto. Ma le foto ti diranno qualcosa di più. Molto bene, io posso fare una proposta? Sì, fai una proposta. A livello nazionale. Sì. Visto che si parla di fare figli, di essere splendide mamme e tutto, sabato 7 giugno, perché l'abbiamo citata mille volte e ne abbiamo letto il blog mille volte, è il compleanno della nostra Wandy, della Wandy nazionale. No, veramente parlare di una super mamma, allora andatevi a cercare il blog di Wandy e fatele gli auguri. Veramente, veramente ti vorrei correggere perché è stato il primo giugno. Io ero invitata alla festa sabato, mannaggia, non ci posso neanche andare. Pure lei in Milan dà queste notizie sbagliate, ma insomma, ma che modi sono? Ma è informazione? Veramente, disinformazione la mia. Va bene, facciamo due compleanni, anzi, compleanno rinascimentale, deve durare una settimana almeno la festa. Mi sembra giusto, andiamo all'informazione vera del traffico, quella è vera. Che meglio, sì. A queste condizioni l'Alitalia la compro io. Le raccomandazioni che ci hanno fatto lì alla Comunità Europea le possiamo tranquillamente assolvere se ritiriamo tutti i nostri militari dal Kosovo, dal Libano e dall'Afghanistan e li impieghiamo di supporto alle Fiamme Gialle, alle Guardie di Finanza e ai Carabinieri nel contrastare evasione fiscale e delinquenza. Io volevo ringraziare le persone come la Pieredda. Sono del parere che questi qua sono i nuovi santi. Grazie a Pieredda e grazie a tutti coloro che sacrificano la loro vita per denunciare questi quattro barboni che meriterebbero di essere messi a fame. I giornalisti Rai sono sgomenti. Vissuto han sempre liberi e contenti, ma adesso Renzi sembra proprio stufo di spendere milioni sempre a UFO. Protesta l'Usig Rai, ma sai che dico? Che a Renzi gliene importa proprio un fico. Ciao me da Felice Pautasso. E va bene, il nostro Felice Pautasso è tornato, cara Paola. Tornato più poeta di prima. Ecco. Allora. Cosa volevo ricordare, sì? Alessandro? Che cosa? A proposito cosa? Dei figli. Sì? Ma sai quanti messaggi stanno arrivando? Quanti messaggi sui figli? Immagino. Che critica. Come si fa un figlio senza il lavoro? Ci urla uno con un insulto anche. Vabbè. Ma questo è correttissimo. Volevo salutare via radio quella grande persona che è Monsignor Ravasi, che è il presidente di un'associazione, si chiama Flying Angels, ne parlavamo ieri, che aiuta bambini in tutto il mondo, portando i bambini dalle zone più disperate di questo pianeta in ospedali, in luoghi dove possono essere curati. Ecco, fare i genitori magari è anche quello. Essere operativi anche da quel punto di vista. Il grande Monsignor Ravasi, biblista. Allora, cara Paola, c'è chi mi scrive, sempre David, credo che sia già la seconda volta, ti strameriti un uomo come me. Sì, mi prendo cura io della tua gattina, dice Davide. Se vuoi. Grazie Davide. Mi sembra un po' come dire un po' paraculo, ecco, come, bene, come tentativo bene, di approccio, ecco. Non lo so. Tu Luca hai qualcuno da salutare? A questo punto no, pensavo, posso dire un'eresia? Sì. A volte sarebbe bello che gli uomini di chiesa li facessero i figli. Così magari... Attenzione, la bomba di Luca si è svegliato un po' prima delle sette. Perché magari parlerebbero di qualcosa che sanno. Però... Si potrebbe fare anche una battuta. A volte succede già, caro, esatto. Caro Luca. A volte succede già, può capitare incidenti di percorso. Ma perché dici questa cosa? Perché così... Vuol dire rendersi conto cosa significa? No, perché è una cosa importante, perché è una cosa che, come tutte le esperienze, come anche occuparsi di un animale, occuparsi di un'altra persona, cioè sono cose che cambiano. E trovo che a volte siano ci sono dei proclami un po' così buttati là, cioè avere un figlio non vuol dire essere genitori, così come avere un'auto non significa avere la patente. Sì, c'è anche poi la cosa che ha aggiunto, che forse ha fatto più arrabbiare molti, è sulla questione della vecchiaia, no? Queste vecchiaie tristi senza figli, a parte che moltissimi anziani nostri sono tristi e i figli ce li hanno. Lo figli, esatto. Abbiamo già rinunciato a questo aspetto. Diciamo, però è questo. Ma credo che il discorso fosse più ampio, insomma. No, però, no, ma è chiaro, per carità, noi riduciamo le parole del Papa, così, insomma, lui parla dall'alto del suo magistero. Ti piace Paola Saluzzi questa frase? Va bene, io mi devo fermare, devo dire, che Vanity Fair appunto ha Drew Barrymore in copertina, no? Bambina terribile, ricordiamo anche la storia, una storia anche di alcol e droga, eccetera. Adesso mammina adorabile, giusto per rimanere in tema. Tu Paola che fai alle tre? Ma noi ci occuperemo di grano saraceno. Ah, pensavo di senato francese. Faremo delle ricette a base di grano saraceno. No, credo che ci occuperemo ovviamente del senato francese, anzi ne sono più che certa e più che sicura, e poi seguiremo evento per evento ciò che la ridente politica italiana ci offre. Certo, il grano saraceno è bellissimo. Allora, il grano saraceno, poi c'è Antonio Di Pietro, ricordati, che torna in politica, Gianfranco Fini che torna in politica, e poi la disfida Toti Fitto Berlusconi, anche questa Verdini. Dimentichiamoci mai di Verdini. E poi c'è il compleanno di Wondi, che mi avete nascosto fosse il 1° giugno. Va bene. È rimasto cretino d'un Milan. Ecco, me lo merito. No. Ciao, alla prossima, grazie. Ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:18 minuti, noi siamo qui e voi, come dico sempre, oggi più che mai, razza di debosciati, che state facendo, cari ascoltatori, carissimi amici miei, con le vostre colazioni, le vostre lungaggini mattutine, vi fermate davanti allo specchio, forza, c'è da andare a produrre, come dico sempre, guardo anche Pietro La Corte che qua sveglio dalle 4:30 del mattino a lavorare. Allora, oggi parliamo del fatto che in Italia non si fanno più figli, lo certifica l'Istat, lo dicono i dati. E come ho detto alle 6:30, lo ripeterò all'infinito anche alle 8:15, senza generalizzazioni, perché ognuno ha il motivo proprio, chi economico, chi per scelta, chi per impossibilità, chi perché non ce la fa, vorrebbe ma non riesce. Insomma, i motivi per cui non si fanno figli sono disparati, ognuno ha il proprio. Per il Papa è anche un modo edonistico di vedere la vita, per cui si preferisce all'affetto dei figli il più comodo affetto da dare a un gattino, a un cagnolino, con tutto ciò che ne consegue, la tristezza poi in terza età quando ci si ritrova senza figli. Insomma, questo ha suscitato anche polemiche. Ne discuteremo alle 8:15 con il vostro parere, con ospiti. Avremo Mario Sbern, deputato di Scelta Civica per l'Italia, anzi per la verità, e che tra l'altro ha 6 figli, spero di non essermene perso uno in corso, è stato anche presidente del Forum delle Famiglie Numerose. Avremo ospite anche Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, per parlare anche col vostro contributo del perché non si fanno più figli in Italia. Andiamo intanto a leggere i giornali. In questo mercoledì 4 giugno è forse uno dei motivi per cui non si fanno più figli è la disoccupazione, è la mancanza di lavoro. Qualcuno dice che è un validissimo motivo. Certo, questo tema è, con i nuovi dati Istat, l'apertura per molti quotidiani oggi. Il Sole 24 Ore apre proprio così: disoccupazione record tra i giovani, tasso al 46%. Per il Corriere della Sera: lavorano sempre meno giovani. Repubblica: lavoro sempre peggio, un giovane su due a casa, il bonus alle famiglie. Per Avvenire: sempre più giovani sono senza lavoro. Il Manifesto invece mette una foto: torna il 77, perché come nel 77 è il record storico della disoccupazione. E poi La Stampa: il bonus sarà allargato. Provvedimento stamattina in aula al Senato, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Messaggero, a proposito di lavoro, mette una notizia sugli statali in prima pagina: statali a casa con lo scivolo. Per il Fatto Quotidiano invece: Renzi spaccò la RAI, scene di lotta di classe in viale Mazzini. La RAI è anche sul Giornale in prima pagina: la RAI presa in ostaggio, questo è il titolo, mentre l'Unità battaglia finale sulla RAI. Libero invece scrive in prima pagina: torna la tassa di successione. E questo sarebbe allo studio del governo. Io però voglio partire in una giornata in cui la politica ha regalato ben poco, solo chiacchiericcio. Forse la notizia più curiosa sulla quale si sono buttati i giornali con maggiore passione è questa vicenda del grano saraceno. Un onorevole del Movimento 5 Stelle, per un refuso, dice lui, in un progetto di legge a tutela e difesa del Made in Italy, ha detto e ha scritto che il Made in Italy è aggredito soprattutto dall'uso del grano saraceno. E con questo saraceno evidentemente voleva dire straniero, ma capite che la gaffa era dietro l'angolo. Il grano saraceno rovina l'Italia, questo è il titolo che trovate più gettonato sui giornali. C'è anche un articolo di Mario Giordano in prima pagina di Libero. Ovviamente qui si fa un po' della satira anche in questi articoli, come Mario Giordano scrive: attenzione, crociata grillina contro il grano saraceno. Proprio così, scrive Giordano, il grano saraceno, evidentemente della Saracenia, la nazione probabilmente vicina alla regione della tenerezza, di cui come noto arriva il grano tenero, e alla regione della durezza, da cui arriva l'altrettanto noto grano duro. Capoluogo della Saracenia sarà con tutta probabilità la città di Frumento. Vabbè, sta di fatto che questo povero onorevole Paolo, anzi Filippo Gallinella, si difende, intervistato da Repubblica, da Tommaso Ciriaco, a pagina 10, dice: è vero, sono un bischero, colpa del grano saraceno. Io volevo dire: pensate che la pasta è fatta di grano italiano, invece c'è quello straniero, ma nella battitura è finito sto cacchio di grano saraceno. Sto cacchio di grano saraceno. Chissà come ha fatto a finirci quella benedetta riga sul grano saraceno. L'ho presa da una vecchia relazione della commissione contraffazione. Ho fatto un collage, ho chiesto al legislativo di sistemarla, poi l'abbiamo mandata ai testi normativi, ci sono stati 18 passaggi prima della pubblicazione, qualcuno nella filiera se ne sarebbe potuto accorgere, si difende così l'onorevole Gallinella. Ma non l'ha riletta questa benedetta proposta? Ma l'ho pubblicata a luglio, ero parlamentare da 2 mesi, 3 mesi fa mi segnalano l'errore, io come? Dove? E poi penso: Madonna, ho scritto grano saraceno, speriamo che non se ne accorga accorga nessuno, e invece se ne sono accorti. Chiamo i testi normativi, dico correggete, non ti preoccupare, mi rispondono, e invece no. Comunque dice, eccolo qui, non è la prima volta. Come non è la prima volta? Ma sì, io sono quello che alla domanda stato civile alla Camera nei redditi dei parlamentari come un coglione risposi italiano, e poi ho cancellato, ho corretto subito, ho messo sposato. Insomma, sono un abitué della gaff, che devo fare, non mi sparo mica per questo. Eccolo qui l'onorevole, mamma mia ragazzi, Filippo Gallinella, può capitare, eh? Dai, su, e facciamoci una risata sul grano saraceno. Non si fa invece risate un signore di cui abbiamo parlato spesso in passato, tedesco, ex calciatore, ex presidente del Bayern, evasore fiscale, Uli Hoeneß, condannato in Germania, per lui si sono aperte le porte del carcere. Uli, il presidente, è andato in galera. Mattia e Kelly sono sul Fatto Quotidiano a pagina 6, l'ex patron del Bayern Monaco in cella per evasione fiscale, e il 2 giugno doveva entrare qualche giorno prima, gli hanno detto di presentarsi qualche giorno dopo perché c'era il ponte, quindi non c'era un medico pronto a fare le visite all'entrata in carcere, a differenza che in Italia, fa notare il Fatto, per evasione si finisce dietro le sbarre. E allora l'atteggiamento giudizioso di Hoeneß dopo il verdetto potrebbe consentirgli di accorciare i tempi della detenzione, ma fino a quel momento nessun privilegio. Sveglia alle 5.50, colazione alle 6.20, lavoro 8 ore al giorno, pagate 11,94 euro, grazie ai quali potrà pagarsi qualche lusso, ad esempio la televisione in cella, forse singola. Per il resto dovrebbe fare il macellaio, visto che è figlio di un signore che aveva fondato una ditta di insaccati. Ma Uli Hoeneß aveva detto subito dopo la condanna: ora la sconterò. È andato nel carcere, dove è stato rinchiuso anche per 264 giorni, Adolf Hitler, dove in quel carcere Hitler scrisse il Mein Kampf. E succede così in Germania. Intanto, prima della pubblicità, vi voglio lasciare con questo tema che viene rilanciato, per la verità, ogni anno, come racconta Nino Materi sul giornale, da un preside, anzi dirigente scolastico. Questo dirigente scolastico si chiama Maurizio Parodi, che ha scritto anche dei libri a riguardo, e cioè sarà l'idolo di tutti gli studenti: non date i compiti per le vacanze ai ragazzi, cari professori. Ecco il preside che incita gli studenti a non fare i compiti. Professore toscano lancia lo sciopero estivo. Studiare durante le ferie è inutile. Così riparte, scrive il giornale, l'eterno dibattito. Perché il dirigente scolastico Parodi ogni anno di questi tempi dichiara guerra ai compiti per le vacanze? Certo, scrive il giornale stesso, ha titolato ben due saggi: basta compiti, non è così che si impara, e gli adulti sono bambini andati a male, e quindi certamente lo fa anche per forse lanciare i propri libri, ma è una teoria pedagogica che persegue. A studenti e genitori dice di consegnare ai docenti la dichiarazione del diritto alla vacanza, una sorta di documento finalizzato alla protezione del minore, all'autodifesa della famiglia. D'altronde, dice il professor Parodi, nessuna categoria di lavoratori accetterebbe di prolungare nel tempo libero, e meno che mai di svolgere durante le ferie, compiti professionali imposti. Il dibattito è aperto, avete 3 minuti per snocciolarlo durante la pubblicità. 24 mattino. Alle 7.32 minuti siamo qui a leggere i giornali, a ripartire dalla notizia che oggi viene utilizzata da molti per aprire i quotidiani, cioè una notizia ancora negativa sul fronte occupazione, la disoccupazione record. Ogni volta sentiamo questa frase, purtroppo quando escono le statistiche dell'Istat da un po' di tempo ogni volta è record, disoccupazione record, 13,6% nel primo trimestre 2014, soprattutto tra i giovani. Il tasso è arrivato al 46% di disoccupati, ormai quasi un giovane su due. Ad aprile persi 68.000 posti di lavoro. Il presidente di Confindustria Squinzi Renzi dice: stiamo strisciando sul fondo, basta rigore in Europa, Renzi avanti sulle riforme. Rossella Bocciarelli racconta tutti i dettagli di questa, di questo dato davvero che ci inchioda: 46% dei giovani, pensate che al sud è il 60,9% la percentuale dei giovani, quindi disoccupati, al nord molto meno di media, mentre 60,9% al sud. Ad aprile persi altri 68.000 posti di lavoro. Enrico Marro, anche a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta: l'hanno definita la generazione 1000 euro, ci hanno fatto film e libri, ma in Italia sono tantissimi giovani che magari avessero 1000 euro al mese, devono invece accontentarsi di paghe inferiori, spesso in nero. Quando va bene ottengono un contratto regolare, ma a termine, 6 mesi, un anno, sperando che dopo qualche rinnovo arrivi l'assunzione. Un percorso lento, incerto, che rende più complicato metter su casa e famiglia. Ecco qui che poi veniamo al tema di cui parleremo anche dopo, no? Il fatto che non si facciano più figli in Italia. Continua il Corriere: basti pensare che il 90% dei giovani fino a 24 anni vive ancora con i genitori, mentre riesce a rendersi indipendente dalla famiglia d'origine non più del 38% di quelli tra i 25 e i 29 anni. Per capire cosa è successo negli ultimi 6 anni, da quando è cominciata la crisi mondiale, partiamo dall'Istat, che illustra come il lavoro sia diventato scarso. Nel 2008 gli occupati nella fascia 15-34% erano 7,1 milioni. Nel primo trimestre 2014 sono scesi a 5 milioni. In altre parole, ci sono più di 2 milioni di giovani in meno a lavorare rispetto a 6 anni fa. Ci sono storie ovviamente di alcuni giovani che raccontano le loro vicissitudini per trovare un posto di lavoro. Oggi la Stampa per esempio racconta, sempre a pagina 3, che i call center, che sono un luogo dove spesso molti giovani hanno trovato magari temporaneamente un posto di lavoro, oggi sono in sciopero. Flavia Amabile: la crisi fa scappare i call center, oggi il telefono resterà muto. Racconta Amabile: non arrabbiatevi troppo se oggi, formando un numero di un call center, il servizio sarà ancora più lento del solito. Sono in sciopero anche loro, a migliaia arriveranno a Roma da tutta Italia per far sentire in modo diverso la loro voce e far capire che le cose devono cambiare. All'inizio il loro era un lavoro mordi e fuggi, ora nei call center lavorano madri, padri, persone specializzate che nei call center restano se nessuno li manda via, sono almeno 80.000 secondo le cifre ufficiali. Molto nero, molto sommerso, regole aggirate, leggi non rispettate, stipendi sempre più bassi, guadagni per le aziende sempre più elevati e pazienza se qualcuno ci rimette il posto. Queste le uniche regole del settore, dove tutto era possibile fino al 2006, come ricorda un dossier della CGIL presentato pochi giorni fa. Queste le criticità per la Stampa del settore, che oggi sciopera. A questo proposito, Repubblica va dal ministro al lavoro Poletti, a chiedere: allora, questi dati, caro ministro Poletti. Roberto Mania lo intervista, pagina 2 e 3. Credo che le misure che stiamo prendendo siano le misure urgenti che vanno prese. Inizia così l'autodifesa Poletti: gli 80 euro nelle buste paga per sostenere i consumi, l'apertura dei cantieri per la manutenzione delle scuole, il prossimo sblocca Italia, i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Beh, ma si tratta di misure annunciate, a parte gli 80 euro, chiede Repubblica. Non credo sia così, sono provvedimenti concreti, ma se vogliamo creare lavoro dobbiamo far sì che riprenda la fiducia. Se non c'è questa, gli imprenditori non investono. Ma dunque nessuna misura urgente? Ma più urgenti di così, risponde Poletti. I ministri Padoan e Guidi stanno lavorando a un pacchetto a sostegno delle piccole e medie imprese. E dal Ministero del Lavoro che cosa arriverà? C'è la delega sul mercato del lavoro, il Jobs Act. Quando sarà legge? Entro la fine dell'anno, risponde il ministro. Che aggiunge: guardi, questi dati non hanno alcun collegamento con le cose che ha approvato questo governo, e poi con il PIL a meno 0,1% è difficile creare lavoro, il lavoro aumenterà lentamente, certo serve più dello 0,6, il nostro apparato produttivo viene da 6 anni di crisi, prima che si facciano nuove assunzioni è necessario che le imprese tornino a saturare gli impianti. Poletti fa dunque un'analisi, dice cifre che non dipendono da questo governo, stiamo agendo e stiamo agendo in fretta. A un certo punto la domanda di Roberto Mania, il presidente di Confindustria Squinzi, dice di smetterla con le storielle che ormai strisciamo sul fondo, e Poletti non sfugge dicendo: Squinzi fotografa la realtà, l'Italia è ferma, il nostro paese non è stato capace di curare i suoi mali durante la crisi. Sulla disoccupazione giovanile a livelli impressionanti e sul programma Garanzia Giovani, quando produrrà i suoi effetti, risponde il ministro, le regioni sono partite tutte, anche se con velocità diverse. La Garanzia Giovani ha l'obiettivo di offrire ai lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni un'opportunità di formazione e attività, sarà la nave scuola per disegnare le nostre politiche attive per il lavoro. In un mese si sono registrati più di 70.000 giovani. Sta di fatto che bisogna insomma avere un po' di ottimismo, ma questi dati non aiutano a vedere in modo ottimistico. Ottimismo anche sulla questione all'Italia, il salvataggio all'Italia sul tavolo, lo stesso Poletti ha fatto sapere ci sono 2.400 esuberi, questa cifra raccontata anche per la verità sono 2005 secondo il Sole 24 Ore, secondo Gianni Dragoni, perché sono attorno al 2004-2005. L'Unione Europea ha lanciato l'avvertimento: il controllo deve rimanere in mani europee di Alitalia. Sta di fatto che sugli esuberi e su Alitalia è interessante l'editoriale di Sergio Rizzo oggi in prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è Ali indebitate, memorie corte. Scrive Rizzo alla notizia della lettera con cui la compagnia degli Emirati Arabi Etihad ha confermato interesse ad acquisire l'Italia, Maurizio Lupi ha tirato un respiro di sollievo. Oggi, giorno decisivo per la nostra compagnia di bandiera. Siamo sollevati col ministro alle infrastrutture. C'è però da dire che se siamo arrivati a questo punto è anche per colpa di chi nel 2008 impedì il passaggio dell'Alitalia e l'Air France. Per chi ha memoria corta ricordiamo la risoluta opposizione orchestrata in campagna elettorale a quell'operazione da Silvio Berlusconi, senza che nel coro del suo partito si udisse una sola stonatura. Lo stesso Lupi, ora esultante di fronte alla prospettiva dei 600 milioni, la bollò come un regalo ai francesi. E sorvoliamo pure sul fatto che la fusione con Air France ci avrebbe fatto risparmiare un numero imprecisato di miliardi. Ancor di più, tuttavia, avremmo apprezzato il mea culpa dei sindacati, perché se il Cavaliere e i suoi contrastarono la cessione ai francesi per puro calcolo elettorale, chi tecnicamente la fece saltare furono loro, con in testa la CGIL. Forse pensavano che, messo alle strette, ci avrebbe pensato ancora una volta Pantalone a tenere in piedi una baracca che faceva acqua da tutte le parti dopo due decenni di scorribande dei partiti e di scelte manageriali sbagliate con la fattiva collaborazione sindacale. Per non parlare dei patrioti, continua Rizzo, chiamati da Berlusconi a far rinascere dalle ceneri la nuova Italia. Insomma, non certo tra le migliori iniziative, fortissimamente sostenuta dal futuro ministro delle infrastrutture Passera, al tempo amministratore delegato di Banca Intesa. Ne ha un po' per tutti Sergio Rizzo in questa vicenda di Alitalia, una vicenda che sicuramente avrà i suoi sviluppi nelle prossime settimane. A proposito di lavoro, beh, interessante anche questa notizia che è in pagina prima e poi pagina 3 del Messaggero. Gli statali a casa con lo scivolo, così titola il Messaggero, quotidiano sempre interessato e sempre molto attento a quello che succede ai dipendenti pubblici. Il piano del governo è proprio questo: statali a casa ma con lo scivolo. Il governo sta studiando l'esonero dal servizio con metà stipendio per chi è già vicino alla pensione. Come in un mosaico, le tessere della riforma della pubblica amministrazione che il governo Renzi presenterà venerdì 13 giugno continuano a incastrarsi. Venerdì 13, mannaggia, la riforma della pubblica amministrazione, venerdì 13, paura, Mauro Meazza, paura, venerdì, ti ricordi venerdì 13? Venerdì 13 si era fatto poi anche un sequel, no? Come si dice adesso, cioè paura. Più di buongiorno a tutti, buongiorno, no? Buongiorno. In primo luogo, buongiorno anche a te Alessandro. Grazie, sì, grazie. Sì. Venerdì 13 infatti aveva avuto più uscite, mi pare, questa serie, era diventata una serie. Sì. Allora potremmo mettere in quella stessa data anche un po' di cose, sai che siamo nella settimana decisiva. Ah, sì? Per la Tasi. Ah, ecco, sì. Appunto. Ecco, e anche per il rinvio della presentazione di, per i pagamenti di Unico per quelli che sono soggetti agli studi di settore. Ecco, allora potremmo accumulare un po' tutte le date, perché le cose ancora non sono chiarissime, mettiamo tutto il venerdì 13, facciamo 1, 2, 3 così per amministrazione e Tasi, anche come dire il, per quanto riguarda Unico. Volevo segnalarti che sul Sole 24 Ore trovi ulteriori dettagli sulla possibilità di comporre le questioni Tasi di cui riferiamo appunto grazie al decreto legge IRPEF, però avvertiamo, si tratta ancora della trattativa in corso appunto alle Camere legata al decreto legge degli 80 euro IRPEF. E poi sul sito c'è il nostro SOSI Mutasi, con dove SOS non è una tassa, come dicevo già ieri, il Mutasi, che appunto contiene le varie delibere approvate, e così uno può cercare di capire se deve pagare o no il 16 giugno. Oramai sento anche persone che sul tram, sulla metropolitana, per strada, si chiedono: tu paghi la Tasi adesso? Cioè, è tutto un confrontarsi, è bellissimo, è bellissimo. Per caso hai messo il deragliano i tram, contribuenti. Certo. No, ma avvicina anche noi contribuenti, ci dà anche opportunità per attaccare il discorso con magari delle persone. Uno parla di vacanze, calcio o di Tasi? Sì. O di Tasi, effettivamente, prima che in attesa che comincino i mondiali possiamo occupare il tempo parlando di Tasi. Hai mica messo i tuoi 2 euro in Costa Rica? No, per carità, posto magnifico che visitai, fantastico. No, vorrei segnalarti, come puoi leggere sul Sole 24 Ore di oggi, guarda che si è ampliato ulteriormente la lista dei paesi che fanno lo scambio, faranno lo scambio automatico di informazioni. Quindi se tu i 2 euro li vai a mettere in Costa Rica, per ipotesi, e guarda che poi lo sapranno. Cioè, adesso che lo so, insomma. Ecco, tieni lì per piacere i 2 euro, non fare pasticci. C'è l'elenco comunque sui principali paesi riportato sempre su norme e tributi, quindi fai una certa attenzione. Volevo dirti, la produzione industriale è andata così, più 0,2. Le vendite di auto sono andate malino, meno 3,8%. Sì. Questi purtroppo non sono numeri, non abbiamo dato cinquine questa volta, però invece diamo tutte le indicazioni in dettaglio sulle pagine di Imprese e Territori oggi sul Sole 24 Ore. E poi naturalmente insieme, oggi come ogni mercoledì, il focus 16 pagine speciali dedicati alla mediazione tributaria. Perfetto. Quindi mettiamo che tu abbia delle liti in corso, ti puoi aggiornare con il focus di oggi. Possiamo andare a mediare, caro Mauro. Andiamo a mediare, avviamoci serenamente verso il traffico. Allora, alle 7:47 minuti continuiamo la lettura dei giornali. Libero mette in prima pagina questa notizia: attenzione cari italiani, ritorna e rispunta la tassa di successione. Ovviamente è un titolo molto sbandierato, è un qualcosa che è allo studio, secondo Libero, del governo. La bocciatura europea accelera il progetto allo studio del Ministero dell'Economia con un'aliquota del 20%. Il governo vuol portare a casa 40 miliardi l'anno. Renzi prepara la tassa di successione, così scrive Libero con Francesco De Dominicis, racconta di un dossier segreto custodito solo nelle mani di alcuni pezzi da 90 del Tesoro. Stiamo parlando della tassa di successione che il governo Renzi vorrebbe reintrodurre. Chi pensa di ripristinarla guarda tutto il patrimonio degli italiani. Tra case e investimenti si tratta di 9.437 miliardi di euro, le cosiddette attività reali valgono 5.767 miliardi, mentre la liquidità corrisponde a 3.670. Insomma, l'idea è che rispunti anche, tra l'altro, l'ipotesi patrimoniale, tanto che racconta Libero l'economista del PD, responsabile economico del partito, Taddei, il professor Taddei, incontra le banche d'affari al Nazareno. Sta staremo a vedere, questo è ciò che sbandiera in prima pagina Libero, mentre sullo sciopero della RAI ancora ci sono tante notizie, tante pagine, lo sciopero che spacca i sindacati, avete sentito ieri il garante dire questo sciopero è illegittimo, ieri avevamo il presidente della commissione vigilanza RAI Fico che invece sostiene lo sciopero nella parte in cui dice si vuole svendere RAI Way, sta di fatto che staremo a vedere che succede. La notizia forse più interessante della RAI la dà Repubblica, racconta Carmelo Lopapa in un retroscena, ieri Gubitosi, cioè il direttore generale, e Tarantola, vale a dire la presidente della RAI, sono andati in un incontro che doveva rimanere segretissimo e ovviamente è in pagina 8 di Repubblica, dal Ministero dell'Economia Padoan. Aiutateci, Gubitosi e Tarantola in segreto al Tesoro, e Padoan risponde: stiamo preparando la riforma del CDA, del Consiglio di Amministrazione, racconta Carmelo Lopapa. Il presidente Tarantola, il direttore generale Gubitosi si sono presentati ieri mattina in gran segreto negli uffici del Tesoro per un colloquio col ministro Padoan. Al governo Renzi le più alte cariche dell'azienda chiedono aiuto, chiedono tanto per cominciare che i conti della TV di Stato non debbano subire ulteriori tagli. Oltre i 150 milioni, sospetto non infondato dal momento che ad altre società partecipate è stato già preannunciato che la cura dimagrante appena avviata avrà corpose appendici nel 2015 e nel 2016, quindi intanto basta tagli. E poi hanno chiesto anche una mano per accelerare la vendita di Rai Way, questo l'incontro al Ministero dell'Economia tra Gubitosi Tarantola da parte della RAI e Padoan, racconta così Repubblica. Vabbè, sulla politica che dire, devo spendere più di 3 secondi sul dibattito sul Senato alla francese? È ripartito questo balletto, il nuovo modello è il Senato alla francese, la riforma del Senato alla francese, ma Forza Italia è contraria, inaccettabile. Prendete tutto ciò per fede, per oro colato, oppure leggetevi in maniera appassionante tutti gli articoli che parlano del fatto che il PD vorrebbe il Senato alla francese e Forza Italia dice è inaccettabile il Senato alla francese, e siamo pronti a rompere, questo è il titolo che viene attribuito a Berlusconi, l'intesa vuole dire con Renzi, siamo pronti a rompere l'intesa sulla riforma del Senato se vogliono mettere il Senato alla francese, tanto che il Corriere racconta forse Renzi e Berlusconi torneranno a rincontrarsi. Vabbè, succede anche questo. Per quel che riguarda la cronaca, segnalo un'interessante intervista di Paolo Berizzi su Repubblica a Patrizia Reggiani, è la prima volta che parla con lei, che è stata condannata a 26 anni per il delitto dell'ex marito Gucci. La Liz Taylor della Griff, così è definita, parla per la prima volta: la mia nuova vita dopo la prigione, ora sogno di tornare a lavorare da Gucci. Io quando l'ho letto ho detto, ma come? È stata condannata, a parte che lei si dice innocente, ma è stata condannata per l'omicidio Gucci. E mi sento ancora una Gucci, la più Gucci di tutti, e vorrei tanto rientrare in Gucci. Tanto che Paolo Berizzi dice, scusi, sta scherzando, vero? Assolutamente no. Sono stata condannata a 26 anni per il delitto del mio ex marito Maurizio, ma voglio ritornare in Gucci, mi sento la più Gucci di tutti. Va bene, è stata vista passeggiare, c'è una foto che campeggia in giro con il suo pappagallo Boh, appeso alla spalla, aggrappato alla spalla. Dice: mi sto riaffacciando adesso alla mia Milano, sta ancora scontando per la verità gli ultimi periodi di servizi sociali. Lei rimase celebre per la frase, quando era in semi-libertà qualche anno fa, preferisco stare in carcere che lavorare, non ho mai lavorato in vita mia, risponde Patrizia Reggiani, non è che non volessi lavorare, ma il percorso era disagevole, uscire da San Vittore, dormire in carcere a Opera, tornare a casa dopo il lavoro... un caos. Ma come un caos? Meglio oggi che lavoro e torno a casa mia. Ma lei poi passeggia in via Monte Napoleone col pappagallo Boh sulle spalle. J'aime pâté les bourgeoises. Mi piace sbalordire. E mi scuso per il francese. Sono anticonvenzionale, così capisco subito se riscuoto simpatia o disapprovazione. Comunque, parla Patrizia Reggiani per la prima volta, un'intervista di un'intera pagina, pagina 21 di Repubblica. Altra notizia di cronaca, se vi interessa, è morto ieri a 88 anni Alexander Shulgin. E voi dite, e chi diavolo è o era questo signore? Alexander Shulgin, come racconta il Messaggero, il quotidiano nazionale, era un chimico americano di origine russa, considerato il padrino dell'ecstasy. Nella sua vita, il farmacologo, nato a Berkeley nel 1925, ha scoperto, sintetizzato e provato anche sulla sua pelle oltre 200 sostanze psicoattive, tra cui anche la metanfetamina, che sta alla base della droga comunemente nota come XTC. L'inventore dell'ecstasy è morto ieri. Va bene, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento della carta costa. Oggi stravince il Fatto Quotidiano con Antonello Caporale, che dedica un'intera pagina a che cosa? Al parallelismo di come vivono il 2 giugno Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Matteo Renzi, col passo veloce verso Piazza Venezia, intercetta una famiglia con carrozzina, salutata. Una motociclista interdetta, salutata con sorrisone. 5 turisti americani al bar. Where are you from? A cui presenta Pietro Grasso. Ha fatto il 5-7 volte, ha abbracciato un'elettrice emozionata e quando è salito sul pacchetto presidenziale ha messaggiato amici e forse ministri. Mentre Berlusconi viveva con più ansia, gli scappò una volta anche un imprevisto vaffanculo. Ma vi rendete conto? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, prima di introdurre l'argomento del giorno, vi voglio ricordare la notizia che è stata battuta dalle agenzie poco fa, di cui magari parleremo se riusciamo a trovare qualche protagonista così al volo. È stato arrestato il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Inchiesta corruzione, concussione, riciclaggio. La vicenda è legata a possibili mazzette per il Mose. È stato arrestato anche l'assessore regionale alle infrastrutture del Veneto, Renato Chisso, ed è stato richiesto l'arresto per Giancarlo Galan, onorevole, ex presidente della regione. Richiesto l'arresto perché, essendo onorevole, non può essere arrestato. Comunque, questa è la notizia certamente di questa mattinata. Intanto noi vogliamo parlare di un altro tema, ben altro tema, una premessa che valga per tutti e per tutta la trasmissione. I motivi per cui in Italia non si fanno più figli o non se ne fanno più come prima sono ovviamente disparati, ognuno al suo, non bisogna generalizzare, lo sappiamo bene, lo so bene. C'è chi non fa figli per una questione economica, chi non ha un lavoro, chi perché ci prova ma non arrivano, chi non li fa per scelta, certamente. Il dato di fatto certifica l'Istat che nascono sempre meno bambine e bambini. Questo è un dato indiscutibile dal punto di vista numerico. Certo, l'altro ieri si è messo anche il Papa a dare una lettura dall'alto del suo ruolo, una lettura che critica uno stile di vita edonistico, no? Mirato solo alla finalizzazione della ricerca del piacere. Per cui il Papa ha detto queste parole: questi matrimoni che non vogliono i figli, chi vogliono rimanere senza fecondità. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto, è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo, ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, 2 gatti, e l'amore va ai 2 gatti e al cagnolino. È vero o no questo? Lo avete visto voi? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine, con l'amarezza della cattiva solitudine. Vabbè, parole forti, anche se col solito tono. Voglio salutare Chiara Saraceno, sociologa della famiglia. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Saraceno. Buongiorno. Mi faccia salutare anche Mario Sberna, che è deputato di Per l'Italia. Buongiorno, ben ritrovato Sberna. Buongiorno, grazie. Ricordo sempre i suoi tanti, 6 figli, sì. Sì, 5 vede che gli ne ho attribuito uno di più. 5 figli. Allora, professoressa Saraceno, per carità, la premessa l'ho detto, no? Ci sono vari motivi per cui non si fanno figli. Le piace intanto la lettura del Papa o le pare un po' troppo esagerata? Assolutamente no, non, l'ho trovata veramente un po' fuori dalle righe, soprattutto in questo clima così pesante in cui molti giovani non riescono neanche ad uscire di casa, figuriamoci farsi una famiglia, perché l'orizzonte temporale su cui possono contare è così breve, così incerto, in cui le donne fanno fatica. Cioè, pensare che non si fanno figli o che si cominciano a fare tardi, quando poi dopo magari si scopre che non si può, quando è troppo tardi, solo per egoismo, in una situazione invece di così gravi difficoltà generali, mi è sembrato, come dire, un po' ingeneroso e anche un po' superficiale. Beh, onestamente dire si prende un bel cagnolino, ecco, un bel gattino. Sì, no, calcoli che il calo della fecondità in Italia è stato drammatico soprattutto nel mezzogiorno. Il mezzogiorno erano le regioni in cui tradizionalmente la fecondità era più alta. Oggi la fecondità del mezzogiorno è più bassa che nel centro nord, e lì le donne non lavorano, certamente non lavorano non perché non vogliono, ma perché il lavoro non c'è. Eccetera. Tra l'altro, quindi non è certo perché le donne lavorano, si fanno meno figli. E quindi, come dire, quando si vedono questi dati, poi il singolo caso, certo, si può vedere la coppia che non vuole, e poi sono fatti i suoi, onestamente, se non vuole avere figli. Ma la questione è che molto spesso non si può fare un figlio in più. L'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi in cui avere un figlio in più espone al rischio di povertà molto di più che in altri paesi. E quindi noi abbiamo un tasso di povertà minorile davvero preoccupante. Sì, sì, tra l'altro oggi racconta sempre l'Istat dati che abbiamo preso dall'ultimo rapporto, dal 2008 al 2013, pensate, in Italia hanno perso il lavoro 530.000 tra papà e mamme, magari persone che appunto vorrebbero fare un altro figlio, ma che in situazioni economiche non lo fanno. Vabbè, insomma, il suo giudizio è abbastanza netto e negativo rispetto alle parole del Papa. Io vorrei, onorevole Sberna, ovviamente vale la stessa premessa anche per lei, i motivi sono disparati, però lei, tra l'altro, che è profondamente cattolico, è stato presidente dell'associazione Famiglie Numerose, appunto ha 5 figli, ha portato in Parlamento e spesso si dice anche la politica le sue responsabilità. Per esempio, si racconta sempre di come un welfare sia in Francia molto vicino a chi fa figli, mentre in Italia non c'è questo aiuto da parte dello Stato. Che ne pensa di quello che ha detto il Papa? L'ha messa un po' in difficoltà nel doverlo difendere? No, assolutamente, anzi sottoscrivo con convinzione ogni parola, perché evidentemente il Papa non guarda la storia della crisi economica dal 2010 ad oggi, ma quella dell'Italia, che è molto più lunga come crisi delle nascite, che viene da molto più lontano, da questa abbondanza di consumismo, di materialismo che conosciamo e che ha portato a far pensare a molta gente che preferisce la nascita di un vitellino a quella di un bambino, perché il vitello è utile, si fa di tutto per farlo nascere. Se lei pensa per esempio che nelle tariffe dell'acqua, giusto per andare su un argomento, la tariffa insomma per i consumi scatta, la tariffa sociale per i consumi scatta dopo 108 metri cubi nella bolletta, e quindi più figli hai più paghi di tariffa, mentre invece per la tariffa zootecnica non scatta mai, è sempre la tariffa sociale. Solo per dire come lei dice, addirittura c'è più rispetto per chi alleva vitelli rispetto a chi alleva figli. Esatto. E così guardi, ma lo sanno ovviamente le famiglie che vivono di uno stipendio e che guardano le bollette, guardano la tassazione, che è fatta tutta sistematicamente per punire chi ha messo dal mondo dei figli. Su questo la politica dovrebbe dare una risposta. È un motivo per cui appunto in Francia magari si fanno più figli, perché si arriva ad avere 7.000 euro all'anno dallo Stato come aiuto, e in Italia no, quindi non è che è una scelta edonistica. pensionistica, appunto, come dice il Papa. Sì, fino appunto all'anno scorso, ma io trattengo lo stesso identico stipendio, quindi lo posso dire ancora a ragion veduta, la tassazione in Francia sarebbe stata uguale, se noi fossimo stati in Francia, per me in Italia sarebbe stato uguale a zero. Avendo 5 figli praticamente non si paga più nulla di tasse. In Italia più figli hai, più paghi, perché le detrazioni sono sempre. Ma vede che, onorevole, anche lei la mette appunto sulla questione economica, quindi come invece sostenere, guardi, che il Papa abbia ragione da questo punto di vista? Non c'è da stupirsi se in un trentennio quantomeno di edonismo, di egoismo, di egocentrismo, in un mondo in cui tutto è calcolato, quantificato, mercificato, è evidente che insomma l'amore dei genitori per i figli, che per antonomasia non ha limiti, perché l'amore ha la misura dell'amore, amare senza misura, non c'è da stupirsi insomma di quello che è avvenuto. Noi, famiglie numerose, siamo ancora convinti che nelle nostre famiglie cresce il futuro migliore del paese, perché nelle nostre case la solidarietà, la condivisione, la forza, il coraggio per affrontare le difficoltà, la sobrietà felice, il dono totale sono pane quotidiano. Questi figli, che sono il domani della nazione, sono tutti voluti, desiderati, coccolati, apprezzati, cresciuti, educati, amati. Interessante, lei ha usato questi tre termini, professore Saraceno: edonismo, egoismo, egocentrismo o libertà dall'altra parte, cioè libertà di fare proprio quello che si vuole. Sono ben due approcci filosofici ben diversi e opposti. Confesso che non ho visto tutto questo edonismo e consumismo. Ripeto, mi sembrano generalizzazioni improprie. Oltretutto, l'onorevole, mi permetto, da un lato dice in Italia non si, e la responsabilità della politica è grandissima, non si sostengono coloro che si assumono la responsabilità di fare dei figli, e poi dice non si fanno i figli perché c'è edonismo e consumismo. Mettiamoci d'accordo, per favore, piuttosto è questa politica che ha scaricato tutto sulle famiglie, il costo anche della propria riproduzione come società. È questa famiglia che non accompagna chi ha figli, che non accompagna le donne che vogliono avere un figlio o un figlio in più, ma anche stare nel mercato del lavoro, fare qualcosa d'altro che oltre a essere splendidamente madri. Quindi stiamo un poco attenti a dare dei giudizi, tra l'altro morali, moralistici, così pesanti. Vabbè, diciamo, il Papa qualche giudizio morale. Sì, il Papa. Fatto che mi permetto di dire che il Papa, con stimabilissima persona ammirevole, ma che dica che è egoista chi si sposa e non fa figli, mentre invece i religiosi non li devono fare per nulla, questo anche lo trovo, come dire, l'egoismo è di chi si sposa, e invece chi è apparentemente casto, vergine, eccetera, invece è generosissimo perché non fa figli, perché è generoso e si dedica agli altri. Ecco, mi sembrano due una contraddizione, però devo dire almeno al Papa qualche categoria o diritto di parlare dall'alto della sua magistero cattolico, cattolici. Di fare qualche discorso morale possiamo concedere. Ovviamente può far dire quello che gli pare, io sono per la libertà di espressione, però trovo pesante che proprio un Papa così in generale comprensivo delle ragioni degli uomini e delle donne, questa volta si sia lasciato ad andare a un discorso un po' da bar, cioè che non si vogliono i figli e si amano i cagnolini, ma per favore. Effettivamente per il Papa considerato molto comprensivo è stato un giudizio così, che è arrivato un po' come un fulmine al ciel sereno per molti, anche che pensano che abbia detto in questo inizio di papato tante cose positive. Andiamo però a sentire le informazioni, non le informazioni sul traffico, la pubblicità, tra qualche minuto rientriamo. Vorrei anche il contributo di voi ascoltatori, 800 24 0024. Siamo con Chiara Saraceno e Mario Sberna. Ovviamente ognuno ha la sua storia, la propria storia. Ognuno può dire non faccio figli perché è giusto. Però se ci sono anche delle considerazioni generali su quella che è la frase che ha detto il Papa, o sul perché secondo voi in generale non si fanno più figli in Italia, siete benvenuti. 24 mattino. Allora eccoci qua, le 8:36 minuti, stiamo discutendo del fatto perché in Italia non si facciano più figli, come certifica l'Istat e come insomma il Papa ovviamente ha dato una sua lettura di critica anche agli atteggiamenti di vita degli italiani. Ascoltatori ci scrivono, chi ci scrive: rivendico la libertà di essere edonista, un ascoltatore, oppure fare figli è una forma di egoismo per proiettarsi nel futuro, ha sentito onorevole Sberna, questo ci scrive un ascoltatore. Vabbè, sono interpretazioni. Beh, anche chi per fare figli, le donne devono stare a casa, cioè cos'è, un manipolo di progressisti ci sta seguendo oggi via sms. Oppure un interessante, un ascoltatore, Andrea, dice: la mia secondogenita mi è costata 9.000 euro, fatto i conti, in un anno, e non guadagno tanto quanto un parlamentare, anche se lei, onorevole Sberna, abbiamo sempre detto varie volte, si trattiene solo quanto, 3.000 euro più o meno? Cioè, 2005, perché lei viveva con questo stipendio prima e il resto lo dà in beneficenza. Però l'aspetto economico conterà o no, onorevole Sberna? Sì, appunto, anche per rispondere prima all'affermazione, evidentemente sono più, non è incoerenza, sono più temi che hanno portato alla situazione nella quale viviamo oggi, e certamente la politica ha la sua responsabilità. Se si guarda i dati, se in Trentino Alto Adige il tasso di natalità per 1.000 abitanti è ben superiore rispetto per esempio alle Marche, qualche cosa vorrà dire, ecco, no? Politiche familiari. Infatti, no, la critica che la professoressa Saraceno le faceva prima è: se lei dice che giustamente c'è una questione economica, come si concilia invece col fatto che lei sostiene anche che il Papa abbia ragione? Cioè non è tanto una scelta un gatto, un cane piuttosto che un figlio, ma è proprio che per molti è una questione economica, come... Per molti è una questione economica, per tutti in ogni caso è una questione culturale, cioè c'è stato un cambiamento culturale in Italia che ha privilegiato, l'ascoltatore lo mette con orgoglio, l'edonismo, l'egoismo, l'egocentrismo, l'effimero, la scelta dell'effimero. Quindi noi non abbiamo mai visitato le capitali europee, non abbiamo mai messo un profumo costoso, non abbiamo mai bevuto lo spumante francese, perché abbiamo fatto una scelta di vita, ci siamo aperti, tanto è vero, lei lo sa tra l'altro che dei miei 5 figli 2 sono adottati, quindi sì. È una scelta molto consapevole. Quindi lei dice: voi non avete fatto mai vacanze, non avete mai bevuto. Abbiamo messo, non soltanto noi ovviamente, no? Tutte le famiglie che sono aperte alla vita, hanno messo la vita davanti a tutto il resto. Con gioia l'hanno fatto, con scelta consapevole. Ma tutto questo è il fatto, insomma, che sia cambiato da un punto di vista culturale, lo dobbiamo anche. Va bene, ma è una scelta libera, perché criticare moralmente chi fa una scelta libera opposta a questa? Cioè dire: invece voglio vedermi tutte le capitali del mondo perché mi piace così. Perfetto, però c'è anche un bene comune, che è il bene della società, che non riguarda il mio futuro, come diceva quell'ascoltatore, riguarda il futuro del nostro paese. Il Wall Street Journal diceva pochissimi anni fa che nel 2050 o 2090, chiedo scusa, in Italia saranno 10 milioni, ma già adesso, 10 milioni di persone, tanta è la denatalità, ma già adesso noi dobbiamo porci il problema che calando il numero dei nuovi nati, sì, e aumentando l'aspettativa di vita, c'è qualche cosa che da un punto di vista di servizi non funzionerà ed esploderà. E queste tematiche hanno a che fare anche, lo ripeto, con un altro aspetto che è fondamentale, cioè le teorie malthusiane di cui ancora oggi le nostre università e i nostri professori ne hanno piena la testa, false e smentite dalla storia, ma che continuano imperterrite. Sartori è uno di questi, ma anche tanti altri continuano imperterrite ad arrivare. Mentre invece queste teorie qui, cioè, siamo troppi per le risorse che abbiamo, siamo troppi, no? E non è vero, non è vero che lei dice, le teorie malthusiane sono in estrema sintesi questi. Però lei ha detto il bene comune, cara professoressa Saraceno, è perseguire il bene comune, fare figli? Stiamo molto attenti, fare figli è una cosa che uno fa perché gli piace, perché vuole bambini, perché per tanti motivi. Fare i figli per la patria è una cosa che mi ricorda tempi in cui non vorrei che tornassimo. Ci manca altro che uno fa i figli per il bene comune. Certo, quando li fa produce anche bene comune, ma non lo fa per questo, lo fa perché gli piace, perché vuole investire anche in altre persone. Però contrapporre questo, quindi è solidale, generoso, solo chi fa un figlio in più o fa figli, eccetera. Mentre invece chi non ne fa per nulla o non ne fa uno in più, non è, è solo obiettivamente consumista, egocentrico, individualista, eccetera, come se non contribuisce anche lui, lei, al bene comune nelle cose che fa, mi sembra veramente anche questo una contrapposizione morale, una semplice contrapposizione morale e anche una squalificazione. Oggi Avvenire titola così: culle vuote, prof a rischio, fa una pagina, dossier di tutto scuola, nei prossimi 5 anni perderemo 4.309 alunni in meno in prima elementare, 40.000 docenti in meno, perché ovviamente ci sarà meno. Forse anche questo è una problematica, ma vorrei sentire gli ascoltatori. Mirko ci chiama da Como. Buongiorno Mirko. Buongiorno Milan. Senta, io ho 32 anni. Sì. Mia moglie ne ha 30, io ho tre figli. Sì. Tre figlie. Ho difficoltà, per l'amor di Dio. È dura perché comunque stai a vedere, conti alla mano, mi vanno via solo per l'insegnamento e lo sport per le mie figlie, mi vanno via 7-8 mila euro all'anno. Sì. E senti, la campagna elettorale delle europee che parlano, dobbiamo scaricare i cani e tutto quello che riguarda gli animali, che per l'amor di Dio, ma la famiglia dov'è? Domanda. La famiglia, cioè, lei vede più tutela, vede più tutela per i cagnolini piuttosto che per i figli da parte dello Stato? Se non mi aiutasse mia mamma e mio padre, io sarei da solo, santo cielo, io sarei da solo. Per questo Stato la famiglia è un problema. È un problema addirittura. Beh, vediamo, professoressa Saraceno, un po' è così, lei vive anche in Germania, conosce il welfare degli altri paesi, è davvero penalizzata l'Italia la famiglia? Certamente, cioè, l'ascoltatore diceva è un problema. No, per questo Stato la famiglia è una risorsa da drenare. Certo. Cioè, le nonne devono occuparsi dei nipotini perché i servizi non ci sono, nonni e nonne devono aiutare le giovani coppie a comprare casa e a pagare il nido piuttosto che cioè. E questo non così come le giovani coppie, come le persone un po' più giovani devono occuparsi dei loro anziani fragili, tutte cose bellissime se sono fatte appunto per generosità d'animo. Se sono fatte esclusivamente perché non c'è altro, questo produce dipendenza, costrizione, mancanza di libertà, eccetera, su cui bisognerebbe invece riflettere. È vero quello che dice questo ascoltatore, che per questo Stato, ma non solo oggi, oggi è peggio che in altri momenti perché non se ne parla quasi per nulla, però la famiglia è una risorsa data per scontata, perché sono tasse, ma non solo tasse, ma anche che deve redistribuire, cioè tutto sommato la disoccupazione giovanile è grave, però mica tanto, perché tanto ci sono i genitori che mantengono i figli che stanno a lungo a casa, no? Ah beh, sì, si dice spesso anche che il vero welfare per i bambini molto spesso, ed è vero e confermo, è portato avanti dai nonni italiani e le nonne italiane. Roberto dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno. Ci sarebbe da parlare per un'ora, ma io cercherò di essere breve. Grazie. Per quanto riguarda il Papa, forse sarebbe opportuno, no, che magari ci faccia vedere lui come si fa a mantenere i figli, a farli e mantenerli, ma visto che loro non lo possono fare o non lo vogliono fare, e quindi già siamo prima. Io ho due figli, sono d'accordo con chi non li fa per una scelta, perché come si sta dicendo da stamattina lo Stato non ti aiuta, però lei li ha fatti, è un lusso, però lei li ha fatti, cioè è d'accordo con chi io non li ha fatti? Io li ho fatti perché ho l'opportunità di farli, perché sennò non credo che li avrei fatti. Se avessi avuto un lavoro precario sarebbe da pazzi, sarebbe egoista fare dei figli pur non avendo le risorse economiche per poterli mantenere, perché adesso non mi viene più perché la diretta non è giusto, ma è molto chiaro, dice: se uno non ha le opportunità per mantenerli è più egoista volerli fare per qualsiasi motivo, per una soddisfazione anche di personale, piuttosto che magari garantire un futuro non certo piuttosto che non farli. Ripartiamo dal dopo il traffico, da questa posizione. Siamo qui alle 8:48 minuti. Allora, onorevole Sberna, sentito, è più egoistico fare un figlio se poi uno fa calcoli alla mano, non è in grado di mantenerlo? Ma voi avete fatto i calcoli in famiglia prima di farli, oppure? Sì, ma questo qui mi ricordo davvero il perché i bambini oggi non sono i benvenuti, insomma, no? Negli ultimi decenni ci siamo trasformati a veri soliti materialisti, tutto è diventato mercato, moneta, commercio, il vitello è diventato d'oro. Sì, però un po' di calcoli uno se li deve fare, cioè di quanto costa l'asilo, no? Ma certo che se li deve fare, ma ci mancherebbe altro. In questo ovviamente il fatto che ci sia una politica che penalizza chi mette al mondo dei figli ha molto a che fare, ma non si fa il calcolo nell'aprirsi alla vita, si dona tutto, è l'amore più bello, è l'esperienza più bella, insomma chi è stato padre sa, chi è stata madre sa, è l'esperienza più bella che ti possa capitare nella vita, quello spalancarsi di una nuova vita al domani, al futuro. Tra l'altro, lo ripeto ancora una volta, non solo per noi, perché non è mai una cosa egoistica, è sempre comunitaria, il figlio non è della coppia, il figlio è del paese intero, non la patria come diceva prima la Chiara Saraceno, che per carità del Signore, sto parlando proprio del benessere della società, sì. Un benessere che è dato ovviamente da un futuro che viene solo ed esclusivamente dai figli. Non esiste un futuro senza figli non c'è futuro. Sì certo, no, ma questa è la posizione molto chiara la sua. Sentirei Giovanni da Asti. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Beh, sicuramente io devo dire che il Papa è un grande comunicatore e quello che ha detto è sicuramente un grande stimolo per tutti. Pensare alla vita futura senza figli non ha senso. Io sono figlio di un entomologo, insegnava all'Università di Torino e mi spiegava appunto come gli insetti cercavano nella quantità la prospettiva, sì, per lo sviluppo futuro. Senza figli non c'è futuro, e quello è pacifico. Cioè, vabbè, però gli insetti, sa gli... Però non guarda. Chiaramente la popolazione non si sviluppa in un ambiente sterile. L'architetto questo lo valuto in termini urbanistici. Vabbè, chiaro, ognuno guarda il suo punto di vista, non so, però il paragone con gli insetti forse non è il massimo. Comunque Giovanni, la ringrazio, vorrei andare a Roma da Alessandra. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, io sono rimasta un po' indispettita dal discorso dell'onorevole, non si va in vacanza, non si beve champagne. No, non bevono champagne neanche altre famiglie, che però... Io non so se riuscirò a esprimere il mio concetto. Oggi avere un figlio non è soltanto calzarlo, vestirlo e dargli pasta e ceci. Oggi ai figli devi dare anche delle opportunità. Come diceva la vostra collega, il corso di inglese, faccio per un esempio, sì, in un mondo dove loro dovranno competere con miliardi, milioni di ragazzi inglesi, che sono ragazzi indiani che sono British English come madrelingua e portati per la matematica, che cosa gli facciamo fare a questi figli? Lasciamo perdere la disoccupazione in Italia, dove tra l'altro l'ultimo trota scavalca il ragazzo col master e 5 lingue parlate e scritte correttamente. Quindi lei dice anche una questione di dire, non è solo dargli beni materiali, ma che prospettiva c'è in questo paese? Uno non fa figli perché dice ma che paese siamo? La famiglia investe, almeno la mia famiglia investe nell'istruzione. Noi non gli abbiamo dato le vacanze a Miami, sì. Però tutto quello che avevamo l'abbiamo investito per farlo studiare. E dice non è servito. Non è servito, auguro che servirà, perché il mio è ancora relativamente giovane e sta ancora studiando. Però da quando era piccolo gli abbiamo detto il mondo è grande, guardati intorno. Chiaro. E tutti i ragazzi, tutti i figli delle persone della nostra età, forse perché io vivo in una grande città, non voglio dire di no, però chi ha potuto un minimo ha mandato i figli fuori. È interessante, professoressa Saraceno, ci dice l'ascoltatrice che si può anche arrivare a non fare figli perché non si vede l'idea di una prospettiva di un paese migliore da dare a questi figli, o se no l'alternativa è sì, li faccio, ma per dire andatevene via. Si può arrivare addirittura a fare questo discorso molto preventivo? In parte sì, ma mi sembra che quello che diceva la signora anche qualcosa di diverso, ovvero che oggi per essere responsabili nei confronti dei figli che si mettono al mondo significa anche mettersi nella disposizione di dover investire molto su di loro e con loro, cioè che non basta l'amore, non basta l'affetto, occorre anche metterli in condizioni di poter stare al mondo con qualche opportunità, per cui come dire il costo, so che all'onorevole dispiace sentire parlare di costo, ma il costo di mettere non solo al mondo ma di portare nella vita adulta un figlio oggi è molto alto, molto elevato, quindi è anche un fatto di generosità e non solo di egoismo, quello di dire ne faccio uno solo, ne faccio due, perché voglio investire molto in loro, certo. E se non toglie nulla sul fatto che essere genitori per chi lo desidera è una cosa grandiosa, bellissima, eccetera eccetera. No, ma è chiaro, ma è l'idea di dire, onorevole Sberna, che magari per lei è un valore dare ai figli l'opportunità di vivere senza guardare le capitali europee, senza bere lo champagne, perché avete fatto questa scelta. Però l'ascoltatrice ci dice che invece a volte si fanno discorsi che l'hanno un po' indispettita, a dire no, io voglio dare a un figlio il meglio e per dare al meglio in questo paese vuol dire che devo investire molto di più di quello che potrebbe voler dire in altri paesi. Sono perfettamente d'accordo che i genitori sognano sempre il meglio per i figli e fanno di tutto perché questo meglio possa avverarsi. Poi però, se mi permettono tutti, ci sono anche i figli che hanno pure una loro scelta. Le faccio un esempio: io ho un figlio all'università e un altro figlio che si alza alle 4 alla mattina e fa il netturbino perché non ha semplicemente voluto continuare la scuola. Qui potremmo aprire una grande parentesi sugli insegnanti che non aiutano i figli ad amare la scuola, o magari anche i genitori, però gli altri figli ci dimostrano che invece la amano e ci credono, perché i genitori credono molto, non a caso siamo laureati, e perché ci teniamo anche noi ovviamente all'istruzione, la consideriamo importantissima, però tutto questo offeso nei confronti di tutti quei lavoratori che per qualunque tipo di ragione non hanno potuto avere accesso all'istruzione, come se l'istruzione fosse l'unica ragione per la quale vengono messi al mondo i figli, secondo me è offensivo. Praticamente è detto questo, cioè è detto di fatto che noi genitori non siamo stati capaci di convincere nostro figlio a guardare l'unico bene che era quello della grande istruzione. Non era forse questo il cenno a cui faceva riferimento la professoressa Saraceno, però siccome l'argomento, come vedete, è molto appassionante, ma il tempo è scaduto, ahimè, prometto magari di ritornare su questi temi che riscuotono anche molto successo tra gli ascoltatori. Per il momento mi devo fermare qui ringraziando l'onorevole Mario Sberna e Chiara Saraceno, sociologa della famiglia, e ringraziando tutti do l'appuntamento a domattina 6:30 puntuali.